Sì, hanno accolto la nostra richiesta di un euro all'ora, ma anche di avviare un percorso, appunto, come abbiamo scritto nel nostro comunicato, di appunto iniziare a fare delle assunzioni vere, insomma, soprattutto di quei riders che hanno un monte orario più alti, la possibilità di farsi assumere e quindi essere inquadrati come subordinati dentro l'azienda. Dopodiché c'è stato anche un miglioramento dal lato contrattuale, si passerà a una formula contrattuale più forte, pagata di più. Allora, anche a fronte, insomma, degli oneri, insomma, dei contributi che vengono spesi in questi nuovi contratti, insomma, che saranno meglio della solita prestazione autonoma occasionale, che è la formula contrattuale che più prolifera, insomma, in questo settore, soprattutto per le grandi multinazionali. Infatti voi nel vostro comunicato richiamate anche proprio il fatto che comunque in qualche modo si segna sempre di più un distacco rispetto alle grandi multinazionali che invece, ricordiamo per esempio il caso di Glovo, stanno continuando a peggiorare le condizioni di lavoro dei riders. Sì, questo è stato possibile anche grazie allo strumento della Carta dei diritti del lavoro digitale, uno strumento che comunque noi abbiamo sempre considerato e utilizzato appunto come un metodo piuttosto che come il fine per come riportare i diritti dentro la gig economy, per tutta una serie di limiti che anche avevamo evidenziato in passato, ma ci rivendichiamo il nostro protagonismo nell'utilizzare questo strumento anche come attori principali che fanno proposte a cui poi la controparte è tenuta a rispondere. Diciamo che appunto c'è molto da festeggiare, come dicevi prima, se pensiamo che un anno fa, appunto, quando Snam e Maimenu, dopo la fusione, avevano intenzione appunto di abbassare le paghe e portare a una serie di peggioramenti appunto del lavoro, il nostro protagonismo nel stare sul pezzo, nel porre all'attenzione pubblica, creare mobilitazioni appunto per il rispetto della carta e magari appunto saperla utilizzare come uno strumento per poi anche andare al di là della carta, appunto, dove non c'è un obbligo di assunzione da parte delle piattaforme. Al giorno d'oggi, però, appunto, sapendo tenere attraverso la carta un livello di contrattazione a livello metropolitana con queste aziende, sappiamo che possiamo ottenere dei buonissimi risultati. Dopodiché, appunto, questo oggi ha guardato una sola azienda, un'azienda molto grande, appunto, quella che ha più riders qua a Bologna. Però non scordiamoci che anche, insomma, per gli attori più grossi, come ad esempio Glovo e Deliveroo, che appunto fanno dei turnover micidiali, assumono tanta gente, lo fanno a costi bassissimi, se non addirittura guadagnandosi quando si chiede la trattenuta sul materiale, c'è bisogno più di un percorso più conflittuale, più di lotta, di azione appunto che porti queste aziende a sedersi a un livello di contrattazione, esattamente come abbiamo fatto con Snam e Maimenu attraverso la carta. Esatto, un'ultima domanda, diciamo se da una parte appunto si festeggia oggi il fatto che la lotta in qualche modo paga, c'è cioè chi potrebbe cambiare questa condizione, anche condizione lavorativa, più semplicemente diciamo a livello politico, anche che il governo, anche l'assessore al lavoro di Bologna, Marco Lombardo, venerdì scorso era tornato a insistere su questo tema, quindi l'ultima domanda è il governo dopo le prime promesse continua a tacere su questi temi? Ma sì, ma ormai appunto ci viene chiesto quotidianamente, insomma, a seconda dell'occasione, ma il governo è mal governo, insomma, lo ribadiamo per l'ennesima volta, insomma, da marzo, cioè, ma se non da prima, quell'ipotesi è totalmente sfumata in un nulla di fatto, appunto, tutto dietro quella coltre di promesse, in realtà appunto si nascondeva perdonate il francese, un mucchio di cazzate, di cose che appunto non sappiamo quanto le intenzioni del ministro ci fosse l'idea quella di andare avanti, però sicuramente ecco, all'interno di quella maggioranza di governo forse non si sono fatti i dovuti conti, ma al di là di queste ipotesi, insomma, non mi va neanche di rispondere su cosa dovrebbe fare il governo. Cioè, l'ipotesi iniziale, quella delle tutele forti, quella dell'estensione dell'articolo 2094, era una proposta, insomma, per quanto riguarda determinati aspetti che si poteva pure discutere, però è stata cassata nel giro di una settimana. Diciamo, tutto quello che è venuto dopo è stata un po' una perdita di tempo, ecco, questo possiamo anche dircelo. Quindi, ora come ora, se proprio ci fosse l'intenzione di tirare fuori quella cosa, cosa che appunto non mi sembra, viene un po' sbandierata a seconda di quando gli viene chiesto, appunto ci sarà l'emendamento, però appunto anche dagli stessi colleghi della carta stampata eviterei proprio di fare questo genere di domande, ma non per altro, perché poi di concreto non c'è realmente nulla. Cioè, noi l'ultima volta con cui abbiamo avuto un aggiornamento reale sulla situazione in atto risale appunto agli ultimi mesi del 2018, tutto quello che è venuto dopo è un nulla che appunto non vale neanche la pena di commentare, su cui forse mi sono anche dilungato troppo.